Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento, l'ultimo con l'Adico, anche in questi giorni particolari del Triduo Pasquale. Un saluto a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di una situazione che avete notato e in questo caso parliamo di Treviso, provincia di Treviso, per le compravendite immobiliari. Sì, parliamo di Treviso perché Treviso rispetto alle altre province si è classificata al primo posto per quanto riguarda il crollo del settore alimentare. Addirittura noi abbiamo iniziato dicendo se il settore immobiliare è il termometro per misurare le condizioni economiche di un territorio, Treviso ha la fede molto alta. Tradotto in numeri significa che nel 2014, se anche c'è stato una piccola inversione di tendenza, cioè c'è stato un più 7% di acquisti, e c'è stato un 2013 che è stato disastroso e anche un 2012, ma ancora di più è il dato negli ultimi 10 anni dove Treviso c'è stato un meno 60% di compravendite e meno 40% sul centro storico. Ed è una crisi che certamente va a riferirsi negli ultimi 10 anni, ma che è cominciata nel 2006 e che quindi sicuramente assume delle dimensioni enormi. Quindi si comprano meno case, sarebbe anche interessante capire se è calato il numero degli abitanti. Ecco, questo noi non l'abbiamo verificato, abbiamo verificato solamente quello che è stato il volume degli affari anno per anno, in base ai dati diffusi dall'osservatorio immobiliare e dell'agenzia, e certamente ecco, vale la pena soffermarci anche sul fatto di come l'acquisto di piccole case, parliamo di 2-3 anni, è crollato del 76% in 10 anni e addirittura solo il 33%, diciamo solo tra virgolette, 0,8% le abitazioni di dimensioni più grandi. Questo cosa vuol dire? Che se prima le abitazioni, quindi quelle piccole, erano riservate ai giovani, oggi chi non compra sostanzialmente questa fascia di persone che hanno un'età compresa fino ai 35 anni, che sostanzialmente non hanno le condizioni neanche per potersi comprare un mini appartamento o un trilocale. E il dato è una certificazione un po' di quello che è un andamento, tal punto che appunto quando anche noi abbiamo visto meno 76% in 10 anni, veramente ci siamo resi conto di come la situazione oggi è reale rispetto a quanti invece vogliono continuare a convincerci che le cose stanno cominciando ad andare bene. E parliamo del 2014. No, infatti, no, dici bene, una coppia giovane che magari si è appena messa insieme o si sta sposando ma non ha ancora bambini, dice vabbè, intanto prendiamo casetta, si cerca un mini e se non vengono venduti quelli vuol dire che veramente le cose non vanno bene, perché poi uno insomma nel tempo poi la famiglia si allarga, decide anche di comprare una casa più grande e rivendere quell'altra, ma questi dati evidenziano insomma come veramente ci siano delle grosse difficoltà. Questo in particolar modo a Treviso, perché i dati delle altre città sono leggermente migliori? Sono leggermente migliori, Francesco, però sono tutti con un segno negativo veramente inequivocabile. Abbiamo Treviso che ha la maglia nera, poi seguita da Padova, mentre risulta un po' migliore la situazione a Venezia e a Belluno. Però sostanzialmente, appunto, come hai detto te, anche noi ci siamo concentrati sul fatto che come giovani abbiamo attribuito le piccole abitazioni ai giovani e come, anche se c'è stato un crollo, ma di dimensioni certamente diverse sulle abitazioni, sulle tipologie di media dimensione o più grandi, probabilmente abbiamo anche interpretato il fatto che queste sono più accessibili a chi ha una posizione di lavoro più consolidata, che può accedere quindi a dei finanziamenti in banca e come certe soluzioni possono essere accessibili magari vendendo anche un appartamento che siano acquistati a suo tempo in lire, perché anche oggi noi dobbiamo dire che chi ha acquistato l'appartamento in lire con il cambio dell'euro ancora ha fatto in qualche modo un buon affare, ma oggi comprare un immobile che era considerato per eccellenza in Italia un bene rifugio, sostanzialmente è quasi un po' come il mercato dell'auto, nei primi 2 o 3 anni si svaluta. Quindi passi molto importanti, ma che sono, possono essere fatti certamente da delle persone che per soddisfare i requisiti veramente sono sempre meno, e quindi certamente il fatto del meno 76% giustifica proprio questa diversità di tipologia di persone. Impressionanti questi dati. Io ringrazio per essere stato con noi anche oggi il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ovviamente Carlo, ti faccio gli auguri di una serena Pasqua, ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie mille Francesco, io approfitto anche per fare gli auguri di buona Pasqua a tutta la redazione, a te e a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.